Europa 24. Buongiorno a tutti da Daniele Biacchesi per Europa 24. L'Italia annuncia un pacchetto di misure per ridurre in modo strutturale di 0,3 punti il deficit nel 2015. È quello che spiega il ministro dell'Economia Piercarlo Padoan nella lettera inviata al vicepresidente della Commissione dell'Unione Europea Katainen. Le misure annunciate valgono 4,5 miliardi. Il PIL è calato oltre 9% dal 2008. Un quarto anno di recessione deve essere evitato in ogni modo, secondo Padoan. La composizione del bilancio sosterrà il processo di riforme strutturali che continuerà con ulteriori aggiustamenti nel mercato del lavoro e nella giustizia civile, attesi all'inizio del prossimo anno, scrive Padoan, secondo cui il governo italiano assicura all'Unione Europea che il debito si trova su un percorso a ribasso anche grazie all'ambizioso piano di privatizzazioni pari ad una media annua dello 0,7% del PIL. E la Commissione dell'Unione Europea ha accolto con favore la collaborazione costruttiva dell'Italia, ricorda che la consultazione è ancora in corso e che mercoledì saranno pubblicate le analisi solo di quei paesi con serie deviazioni dalle regole, così il portavoce del commissario Katainen. Ciò che esce dalle elezioni parlamentari anticipate ucraine complica ulteriormente il dialogo con Putin sul conflitto nell'est del paese. Infatti dal voto emerge una schiacciante maggioranza filo occidentale, oltre il 70% di 6 partiti, di cui 2 fortemente nazionalisti, un presidente di pace più debole, un premier di guerra molto più forte delle attese, un solo partito filo russo e la scomparsa per la prima volta dal 93 dei comunisti. Ha avuto coraggio Arseniy Yatsenyuk ad andare in televisione la sera prima delle elezioni chiedendo agli ucraini ulteriori sacrifici. Dobbiamo superare l'inverno, ha detto il premier, invitando a risparmiare energia una popolazione che sta attraversando i primi giorni dell'inverno sotto zero, con i caloriferi spenti. Negli ospedali a Kiev il riscaldamento è stato acceso solo 2 giorni fa. Eppure, malgrado il suo programma di riforme, lacrime e sangue, Yatsenyuk si sta confermando vincitore di queste elezioni, primo partito che si unirà a quello del presidente Poroshenko per formare una solida maggioranza filo-europea e riformatrice. Una coalizione che sembra raccogliere gli orientamenti del primo Maidan, l'accento sull'Europa, che per ora sarà chiamata a rispondere. E non bisogna dimenticare che la questione del gas è ancora aperta e ora Mosca chiede proprio a Bruxelles garanzie su pagamenti che Kiev non può sostenere. Su questo fronte, come su quello della guerra nell'est, la coabitazione tra Yatsenyuk e Poroshenko non promette bene, perché il primo è ferocemente ostile alla Russia e non condivide il tentativo del presidente di arrivare a una soluzione negoziata del conflitto e della crisi energetica, divisi sui 2 nodi più complessi. Antonella Scott, Radio 24, Sole 24 Ore, Kiev. Da pochi giorni si celebra il decennale della Costituzione europea. Facciamo il punto nel servizio sulla sua applicazione. Il fondo blu, il disegno di Michelangelo raffigurato nella piazza del Campidoglio e poi le 12 stelle della bandiera con una tiratura di 3 milioni e 600 copie veniva emesso il 29 ottobre 2004, il francobollo celebrativo della firma della Costituzione europea. Era il lontano 29 ottobre 2004 dunque e una Roma blindata da imponenti dispositivi di sicurezza ospitava tutti i leader europei. In Campidoglio, nella storica sala degli Orazzi e Curiazzi, dove nel 57 vennero siglati i trattati di Roma, venne firmata la Costituzione europea. Sembrava la nuova svolta epocale del sogno europeo, ma il testo non vide mai la luce, seppellito dopo poco più di 6 mesi dai veti francesi e olandesi dei referendum popolari. Il cammino per arrivare in Campidoglio era stato già in realtà difficoltoso e dovette passare prima per la conferenza intergovernativa di Nizza del 2000, poi per la convocazione della Convenzione europea nel febbraio 2002 e attraverso 3 presidenze UE. Allora Barroso stava per iniziare il suo primo mandato. La crisi non aveva ancora colpito, ma il malessere nei confronti dell'Europa stava già montando. Il no dei francesi e degli olandesi arrivò come una doccia fredda. La sfida lanciata allora era: non siamo contro l'Europa, ma non vogliamo questa Europa. Una sfida che oggi ancora non è stata raccolta e che viene a questo punto affidata alla nuova Commissione UE guidata da Juncker. Alessandra Schepisi, Radio 24, Il Sole 24 Ore, Roma. È tutto per Europa 24 di quest'oggi, 27 ottobre. Vi ha parlato Daniele Biacchesi. Europa 24, in collaborazione con Euronet Plus.